voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Miss Dumbum ain't your teacher today? I am. And I got a headache and the runs. So I say, time for recess. I can't conceive what's in your eyes. Another mistake, another regret, another unwanted cigarette. And do you really like me? 'Cause one and one and one makes three. Better luck next time. The next stun time. The next stun time. The next stun time. The next stun time. The next untouchable. Next time, the next stun time, the next stun time, the next stun time, the next stun time, the next stun touchable. Untouchable. affascinantissimi, sono loro i Cajun Dance Party, giovanissima band inglese che sta incidendo proprio in queste settimane l'album d'esordio, per ora disponibile con un unico pezzo, ma ne è bastato uno per impressionare. The Next Untouchable ha aperto quella che è la seconda parte del volume numero 4 di Eclettica di questa settimana. Giulio Caperdoni in voce tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Ed ora sentiamo come The Morning Benders hanno rimesso mano a Crying di Roy Orbison. I was alright for a while, I could smile for a while, but I saw you last night, you held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wish me well, you couldn't tell that I've been crying over you, crying over you. Then you said, so long, left me standing all alone, alone and crying, crying, crying, crying. To understand, but the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, oh so true, I love you even more. Can I do now? You don't love me, and I'll always be crying over you, crying over you. Yes, now you're gone, and from this morning on, I'll be crying, crying, crying, crying, now crying, crying. Oh. Oltre al cinema, Jalil possedeva terreni a Karok, terreni a Farah, tre grandi impori di tappeti, un negozio di stoffe e una Buick Roadmaster nera del 1956. In città era tra gli uomini che potevano vantare le conoscenze più prestigiose, amico del sindaco e del governatore della provincia. Aveva una cuoca, un autista e tre domestiche. Nana era stata una delle domestiche, finché la pancia non le si era gonfiata. Allora, aveva raccontato a Mariam, la famiglia di Jalil era rimasta senza fiato, preda di un soffocamento collettivo che aveva risucchiato tutta l'aria di Herat. I parenti acquisiti avevano giurato che sarebbe scorso del sangue. Le mogli avevano preteso che la buttasse fuori. Da parte sua, il padre di Nana, che era un modesto scalpellino del vicino villaggio di Guldaman, l'aveva ripudiata. Disonorato, aveva fatto fagotto e preso una corriera diretta in Iran, e da allora nessuno l'aveva più visto né sentito. A volte, disse Nana una mattina presto mentre dava il mangime alle galline fuori dalla colba, vorrei che mio padre avesse avuto il fegato di affilare un coltello e fare quello che l'onore dettava. Forse per me sarebbe stato meglio. Gettò un'altra manciata di semi nella stia, fece una pausa e guardò Mariam. Meglio anche per te, forse. Ti avrebbe risparmiato il dolore di sapere che sei quello che sei. Ma era un codardo, mio padre. Non aveva il deal, il coraggio per farlo. Neanche Jalil, aveva avuto il deal, disse Nana, di fare ciò che dettava l'onore, affrontare la famiglia, le mogli e i loro parenti, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni. Invece, a porte chiuse, era stato raggiunto in fretta e furia un compromesso che gli avrebbe salvato la faccia. Il giorno successivo le aveva fatto raccogliere le sue povere cose nell'ala della servitù dove era vissuta. E tanti saluti. Sai cosa ha detto alle sue mogli per difendersi? Che ero stato io a sedurlo. Che era colpa mia. Capisci? Ecco cosa significa essere una donna in questo mondo. Nana posò il secchio con il mangime. Alzò il mento di Mariam con un dito. Guardami, Mariam. Controvoglia, Mariam alzò lo sguardo su di lei. Nana disse: Imparalo adesso e imparalo bene, figlia mia. Come l'ago della bussola segna il nord, così il dito accusatore dell'uomo trova sempre una donna a cui dare la colpa. Sempre. Ricordalo, Mariam. Questo era ancora l'incipit di Mille splendidi soli di Khaled Hosseini. And beaches, limousines, toothless dentists, cops that kill. My baby's got the lonesome lows, don't quite go away overnight. Doctor blind, just prescribe the blue ones. If the dizzying highs don't subside. Doctor.

Immagino che fra i vecchi ascoltatori di Eclettica ci sia chi si ricorda del nome di Whitey. Spesso, da queste parti, pochi anni fa, Whitey ritornato con un pezzo Stay on the Outside che chiude il volume numero 4 della Kitsune Maison Compilation, compilation che anch'essa, ogni volta che viene ripubblicata, trova spazio all'interno delle playlist di Eclettica. Playlist che vi ricordo essere disponibili sempre su myspace.com/eclettica oppure ottenibili direttamente da voi, direttamente nella vostra casella di posta, se scrivendo a Giulio Radio Rock FM chiedete: per favore, posso iscrivermi alla lista nera? Worth it. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 38, volume numero 4. Indice, The Twilight Said, Stateless, Stars, Kid Weird and the Combos, Wheat, Cajun Dance Party, The Morning Benders, Emily Haynes and the Soft Skeleton, Whitey, Jenny Forever. Giulio Capperdoni vi saluta e vi rimanda a domani, sempre alle 19, su Rock FM.